Ad alta voce. Tony Servillo legge Il giorno del giudizio di Salvatore Satta. Ludovico aveva aperto studio di avvocato solo perché questo gli consentiva di non uscire dalla casa di via Sproni, di non mettere la propria personalità alla prova del mondo. Aveva ormai raggiunto i 27 anni e i libri che aveva via via accumulato erano rimasti intonsi in attesa di cominciare dal primo. Questa era la sua vocazione, attendere sempre di cominciare, restando fuori dalla realtà, come se l'inizio delle cose non facesse parte di questa, non dipendesse da noi. In fondo era l'atteggiamento degli antichi che guardavano alle fasi della luna o consultavano gli aruspici. E infatti, egli, quando qualcuno reclamava la sua azione, guardava lontano. Poi diceva solennemente: «Ogni cosa ha la sua ora», che era diventato il motto della sua vita. Quanto ci fosse in questo di spontaneo, quanto di studiato, è difficile dire. Certo, egli si conosceva profondamente e si sapeva impari all'azione, e perciò girava intorno ad essa evitando accuratamente di affrontarla. Ma il lungo esercizio, praticato, come a suo tempo detto, fin da bambino, lo portava a ingannare se stesso prima degli altri, o ingannare gli altri per ingannare se stesso. In ogni caso, il pericolo erano gli altri, che potevano costringerlo a scoprire le carte o stenderlo nudo sul tavolo. Per questo aveva istintivamente filato intorno a sé un bozzolo. Aveva saputo circondarsi di un alone di rispetto, era riuscito ad avvolgersi in una fascia di mistero. E bisogna dire che in questo trovava rispondenza nell'ambiente, perché il borgo estatico di Nuoro aveva bisogno di idoli, come del resto tutti i paesi sardi, e assecondando il figlio di Don Sebastiano, i nuoresi sentivano di nobilitare se stessi. Quando ero ragazzo, c'era a Orotelli Don Antioco Mores, un vecchio dottore in legge che al solito viveva del fitto delle sue tanche. Sempre avvolto nei suoi pensieri, dato che ne avesse, si era da giovane abbonato a due riviste, una tedesca e una inglese. Da 20 anni il Procaccia gliele portava ogni mese fedelmente ed egli le accumulava intonse nella sua stanza. Ma gli orotellesi, ai quali il Procaccia faceva vedere quegli strani francobolli che venivano da mondi lontani, o più semplicemente dal mondo, avevano concepito un alto concetto del dottore e gli avevano fatto la fama di conoscere le lingue, che è il massimo della sapienza. Don Antioco accreditava la fama col silenzio e perciò i suoi compaesani lo portavano in palma di mano, come se essi stessi conoscessero la lingua attraverso di lui. Tanto che una volta, quando capitò a Orotelli uno di quei tedeschi che hanno la mania di scavare le pietre e andò a trovare Don Antioco e gli parlò lasciandolo intontito, se la presero con lui e per poco non lo picchiarono perché non si faceva capire. Questa forma di idolatria non era in contraddizione, come potrebbe sembrare, con lo spirito distruttivo che spingeva i nuoresi l'uno contro l'altro. Nel fondo dell'anima essi avevano una speranza di vita, solo che sentivano individualmente e collettivamente di non essere capaci di realizzarla. La stessa speranza li portava a crearsi fantasmi ai quali aggrapparsi, come appunto nel caso di quel Don Antioco e nel caso di Ludovico. Ma i veri senza speranza erano gli idoli che l'immaginazione o l'allucinazione figurava, tanto che essi cercavano la loro salvezza in un'artificiosa solitudine. Era insomma un reciproco metafisico inganno. Se non che lo studio di avvocato di Ludovico era una realtà con la quale egli si doveva cimentare, tanto più che all'ombra di Don Sebastiano i clienti cominciavano ad affluire. E i clienti sono l'azione. sia che si tratti del vicino che attraversa indebitamente il campicello o della finestra aperta senza le debite distanze o del fondo intercluso, le piccole cause della economia rurale della Sardegna d'allora. Ma l'uomo che aveva scoperto e ne aveva fatto la sua regola di vita che ogni cosa ha la sua ora, non tardò a scoprire che non esistono cause piccole. La paura di vivere gli metteva negli occhi come due lenti di ingrandimento che gli consentivano di muoversi con circospezione. Quelle donnette in costume che costellavano i gradini della scala aspettavano ore ed ore, quando non erano giorni, prima di essere ricevute, e se poi riuscivano a entrare nello studio si trovavano di fronte a un volto affilato che emergeva da una fila di libri e due occhi che le guardavano come se fossero portatrici, con le loro querele, di misteriosi messaggi che spettava a lui decifrare. Con una voce velata egli svolgeva il tema della giustizia, lasciando attonite quelle poverette, per le quali la giustizia o l'ingiustizia era l'acqua che dal tetto del vicino colava sul loro cortiletto. «Servitù distillicidio», esclamava allora Ludovico in italiano, e queste difficili parole esaltavano le donne, che se ne andavano sicure di aver trovato il Messia e spargevano la sua fama nel mondo. Può darsi però che questo episodio non sia vero e l'abbia inventato per caricatura l'avvocato Meleddu, uno dei paesi, che teneva studio a un tavolino del caffè Tettamanzi, dove rastrellava i clienti randaggi, fiutando le formagelle che portavano nelle bisacce. Don Sebastiano, col suo naturale ottimismo, era gongolante nel vedere le sue scale piene di gente seduta, in attesa, e gli pareva di essere tornato ai bei tempi, prima che Giovanni lo detronizzasse. Ma donna Vincenza sentiva un profondo tormento, anche perché quelle donne che venivano a scaricare in cucina i doni della campagna, le uova, il miele e nella stagione gli agnelli e i capretti, la pregavano di interporsi perché il figlio le ricevesse. Ella aveva tentato una volta e si era sentita rispondere: «Ogni cosa ha la sua ora». Sarebbe stata una cosa così semplice per tutti sbrigare i clienti, farsi pagare, ma era appunto la semplicità che non poteva trovare posto nel quadro della vita di quell'uomo che da ragazzo aspettava di leggere il primo libro. Anche ora si sarebbe detto che aspettava il primo cliente e intanto organizzava lo studio, si riempiva di registri, di schede, un'autentica burocrazia che era anch'essa un modo di sfuggire all'azione. Nella stessa stanza dove Don Sebastiano aveva in 50 anni creato una fortuna con tutti quegli atti notarili che ancora si allineavano, rilegati in marocchino dietro i vetri degli armadi, il figlio aveva arrestato il tempo. Attendeva che il pendolo che si era fermato dopo aver battuto tante ore sulla testa curva di Don Sebastiano riprendesse a camminare. La sua vocazione era l'ordine, che è la base della creazione. Perciò, quando arrivava una lettera, la rigirava a lungo fra le mani con occhi meditabondi, poi la riponeva in un fascicolo senza aprirla, perché ogni cosa ha la sua ora. Così pareva facesse delle persone che venivano a parlargli delle loro pene. Riusciva magicamente a rimandarle sempre all'indomani, un domani che non arrivava mai. Bisogna dire che in ciò era aiutato dai nuoresi, che avevano finalmente trovato il loro avvocato. Il fatto più importante nella loro vita e in quella dei villici che gravitavano su Nuoro, sede del tribunale, era avere una causa. Non si trattava di vincerla o di perderla, anzi non bisognava né vincerla né perderla, perché altrimenti la causa sarebbe finita. La causa faceva parte della personalità, se non era l'unico segno, tanto che spesso non c'era tra i litiganti una vera animosità, perché l'uno era necessario all'altro. I nuoresi avevano subito sentito la profonda congenialità col giovane avvocato e accorrevano a frotte, paghi di sedersi sulle scale, nell'attesa che l'iconostasi si aprisse. Quando si apriva e un fedele riusciva a penetrare in quel mondo di carta, tornava a casa orgoglioso e pieno di fiducia nell'avvenire. Del resto, come mi pare di aver accennato, questo incantesimo operava anche nella famiglia. Don Sebastiano aveva praticamente abbandonato le redini nelle mani di un figlio così saggio. I fratelli riconoscevano tacitamente in lui il centro della famiglia e nella loro diaspora pensavano a lui come al custode della casa deserta. Solo Donna Vincenza, tra le ombre che si affollavano davanti ai suoi occhi spenti, vedeva questo figlio lontanissimo, anzi più lontano di quelli che la diaspora aveva seminato nel continente. Macerata dalla solitudine, lo chiamava a gran voce 10 volte al giorno dal seggiolone sotto la pergola e lui non rispondeva neppure o si mostrava infastidito. Ludovico non poteva rispondere a Donna Vincenza. Egli era come l'equilibrista che cammina sulla corda sospesa nell'abisso e non poteva distogliere un momento l'attenzione senza precipitare. Quella storia dell'attesa del primo libro non era uno scherzo, come non era uno scherzo l'abbonamento alle riviste scritte in lingue ignote di Don Antioco Mores. Era la vocazione della conoscenza cui non corrispondeva la capacità di conoscere e perciò induceva a queste simulazioni ridicole. È un fatto del resto abbastanza comune nella vita di provincia e io credo che per questa ragione si trovino oggi in paesi sperduti magnifiche biblioteche. In definitiva è sempre il sogno che opera. I nuoresi erano ignoranti ma non sognavano. Agivano anche quando si ubriacavano o sedevano ai tavolini del caffè Tettamanzi per consumare le ore. Il guaio di Ludovico era che la vita non lo lasciava sognare, lo chiamava a far parte della realtà, lo esponeva a un rischio logorante, proprio come quello dell'equilibrista. A Donna Vincenza, che lo chiamava, egli poteva non rispondere. Ma come non rispondere ai richiami degli altri, che sono costanti, continui, inesorabili? E il primo richiamo venne una sera d'aprile dalle finestre di Don Gabriele Mannu, nella casa davanti a quella di Don Sebastiano. La stirpe dei Mannu, quella, se ricordate, contro la quale si scagliava la furia di Don Ricciotti Bellisai, era certamente la più antica di Nuoro e infatti aveva negli uomini, nelle cose, un che di arcaico che teneva distanti le persone consapevoli di essere destinate a un fugace e anonimo passaggio sulla terra, come a dire tutti i nuoresi. C'erano varie stirpi, quasi tutte formatesi per via di donne, quindi con diversi nomi, ma tutte erano strettamente legate, onde avveniva che, essendo i parenti numerosissimi, almeno uno all'anno ne moriva, e così i Mannu vestivano sempre di nero per lutto. Da questo derivava forse la fama di avarizia che li accompagnava nei secoli. Che fossero avari con gli altri, non lo so. Certo lo erano con se stessi, a meno che questo non sia il solo vero modo di essere avari. Dai tavolini del caffè Tettamanzi si vedeva la fila dei balconi al primo piano del palazzo, l'unico palazzo di Nuoro degno di questo nome, anche se l'intonaco cadeva a pezzi, con le imposte sempre chiuse e gli scuretti inchiodati. Erano le finestre del grande salotto che da anni non si apriva, perché nessuno che non fosse un fattore varcava il portone dei Mannu e il lutto non avrebbe consentito di ricevere gente, seppure ne fosse venuta la voglia. Dentro quelle mura, i nuoresi seduti al caffè vedevano aggirarsi come spettri la moglie e le figlie di Don Gabriele e da scapoli o mal sposati, come erano tutti, ne parlavano con ischerno e le favoleggiavano intente a contare denari e a sbadigliare dalla fame. Invece, le figlie di Don Gabriele non erano spettri. La vita, che non conosce barriere, filtrava attraverso quelle mura di pietre e di fango, traforava la patina di orgoglio che rivestiva come una corazza le donne ormai in età da marito. e se lasciava chiuse le finestre che davano sul corso, ne apriva un'altra che dava su via Asproni e dalla quale si poteva vedere Ludovico curvo sui suoi registri o sulla carta bollata. A quella finestra si affacciava, ma tenendosi un poco indietro come si conveniva al suo stato, la prima delle figlie, che si chiamava Celestina. E così avvenne che Ludovico un giorno sollevò la testa e i loro sguardi si incontrarono. Era anche questa una cosa semplicissima, ma Ludovico si sentì perduto. Il richiamo era perentorio, non si poteva parlare a donna Celestina Mannu come si parlava alle donnette di Oliena che venivano a lamentarsi per l'acqua che colava dal tetto del vicino. Per la prima volta sentì che la vita gli sfuggiva di mano, che non si poteva programmarla perché c'era qualcuno che lo spingeva a forza nell'abisso. Chiuso in se stesso, nella contemplazione dei suoi mali, non aveva mai pensato all'amore. Nell'amore aveva pensato a lui. Ora tutto precipitava. Passò le notti insonni interrogando i suoi sensi e il suo spirito, ma non ottenne risposta. Sentiva che la sua vera vocazione era quella dello scapolo, come di tanti nuoresi che vivevano e morivano simili a funghi. Sposarsi significava entrare nella vita d'un altro e far entrare quest'altro nella propria vita. Un'impresa folle o semplicemente un'impresa che richiedeva una decisione. Ed egli non poteva decidere senza avere nelle mani gli elementi necessari. Se si fosse trattato del matrimonio di zio Priamo e di zia Franceschina, che unirono le loro vite soltanto per non morire soli, sarebbe stata una cosa facile. Ma qui si trattava di vivere, e questo non era facile, era impossibile. Ella appariva puntualmente alle 7 nel vano della finestra, col suo corpo sottile ed elegante, il viso pallido di chi è cresciuto all'ombra. Egli istintivamente sollevava la testa ed incontrava il suo sguardo, che lo esaltava e lo deprimeva nello stesso tempo. Decise di studiare profondamente la fisiologia del matrimonio e si procurò i libri che allora circolavano cercando un consiglio o una via di scampo nella scienza, ma nel profondo sentiva che l'ineluttabile doveva accadere. Non si poteva dire di no alla figlia di Don Gabriele e poi era intimamente lusingato di essere stato prescelto. Quando gli parve che fosse giunta l'ora, scrisse una lettera che mandò con la serva sullo stile delle comparse conclusionali, solo che non concludeva nulla. Era un lunghissimo messaggio in cui egli parlava di sé, dei suoi atteggiamenti di fronte alla vita, e sapendo che le donne di casa Mannu erano religiosissime, anche di Dio. Ma parlava di se stesso anche quando parlava di Dio. Era uno di quei temi che svolgeva a scuola e che gli avevano fatto la fama di dotto e di pensatore. Celestina interpretò la lettera secondo i suoi desideri e l'indomani gli fece un cenno dalla finestra. Egli si avvicinò e lei gli chiese se le consentiva di parlarne al padre. Trascinato dagli eventi, rispose di sì e fu in questo modo che dopo qualche giorno Don Gabriele parlò in farmacia con Don Sebastiano pregandolo di fare la domanda ufficiale. Furono stabiliti i giorni e le ore, lunedì, mercoledì e sabato, dalle 5 alle 7, in cui Ludovico avrebbe potuto visitare Celestina. Questo era l'antico costume. E del resto era un costume razionale, perché non è giusto che due fidanzati disturbino tutta la casa. Don Sebastiano era fiero di imparentarsi con i Mannu, che non erano più nobili di lui, perché tutte le nobiltà nuoresi erano della stessa radice, ma avevano valorizzato la loro nobiltà con lunghi secoli di inerzia, badando non a lavorare, ma a conservare le terre, riscuotendo i fitti e reimpiegandoli in altre terre. Così si era formata la loro musona ricchezza. Ma donna Vincenza non era felice. Certo, non si poteva desiderare di meglio. Tuttavia, da 50 anni essa viveva fronte a fronte con quella gente e non una volta che avessero mandato la serva a chiedere con la paletta un po' di fuoco. Niente. E poi c'era Ludovico. La povera madre non si faceva illusioni. Questo figlio, che le era rimasto vicino solo in apparenza e non rispondeva alle sue invocazioni, la sua mente non poteva comprenderlo. Le sembrava estraneo a tutto, occupato solo a nascondersi agli altri e a se stesso. Un oscuro senso la avvertiva che quel matrimonio non si sarebbe mai fatto e per questo aveva rifiutato, col pretesto della salute, di conoscere la futura nuora. D'altra parte, la visita non sarebbe potuta avvenire che alla presenza di Sanna ed ella non avrebbe potuto resistere alle melensaggini cui il marito compiaciuto si sarebbe abbandonato. Ludovico intanto si esercitava nel suo nuovo ruolo di fidanzato. La vigilia di ogni giorno fissato per gli incontri si preparava un argomento di discussione. Poteva essere la famiglia, la politica, la filosofia. E poiché stava bene attento a non superare i suoi limiti, la discussione si riduceva a un monologo nel quale ripeteva idee generali, accompagnandole con un sorriso e una leggera aspirazione nella bocca, come a circondarle di mistero. La presenza di donna Sabina, la futura suocera, contribuiva a mantenere la ferrea convenzionalità degli incontri ed era per Ludovico provvidenziale perché gli consentiva di evitare effusioni che, da solo a sola, gli sarebbero sembrate doverose. Parlava sempre italiano, anche quando le donne tendevano a rispondere in sardo, perché la lingua ricercata e lontana lo rendeva più astratto. Quando l'ultimo raggio di sole filtrava dall'oscuretto ben chiuso, si alzava e prendeva congedo. Era il solo momento in cui i loro occhi si incontravano, ma Ludovico subito li abbassava, impaurito da quella arcana comunicazione che bruscamente lo inseriva nella realtà. Scendeva le ripide scale di granito senza voltarsi e attraversava la strada di corsa cercando di ritrovarsi solo con se stesso. Donna Celestina aveva nelle vene la castità antica dei Mannu e avrebbe sentito l'amore come una mancanza di rispetto, ma era maturata nella solitudine che l'aveva avvicinata a Dio e nello stesso tempo resa ansiosa del mondo. Aveva poi la cupa intelligenza dei Mannu che la portava alla diffidenza. In più era istruita, perché nella casa desolata qualcuno aveva accumulato dei libri ed ella aveva letto tutto, quel che capiva e quel che non capiva. Perciò, trascorsa la prima attesa, si trovò avvolta in una rete di dubbi e il primo dubbio era l'esistenza stessa della persona che doveva diventare suo marito. Quell'uomo così fine, così bello, che quando parlava pareva ripetesse le parole di un libro invisibile, che cosa aveva di comune con gli altri uomini? Quei discorsi generali che attaccava appena si sedeva nel salotto illuminato ancora con le candele potevano ingannare donna Sabina, ma non lei, che ne usciva esasperata. Se non fosse stato l'orgoglio di casta, gli avrebbe fatto offerta di sé per vedere che cosa al fine voleva, ma era sicura che sarebbe stato dargli un pretesto per una fuga e lei non voleva che Ludovico le sfuggisse. Così, piano piano, si trovò irretita, rassegnata a seguire la volontà di quell'uomo senza volontà. Questo fu l'inizio di un fidanzamento che doveva durare 12 anni. Più giusto sarebbe dire di un matrimonio che finì in fidanzamento, perché il giorno in cui Celestina pregò Ludovico di non farsi vedere mai più, le porte e le finestre delle due case di fronte si chiusero dietro la loro vita, ma ciascuno si portò appresso come un lutto eterno la propria castità. Per l'uno e per l'altra sarebbe stato impossibile sposarsi e anzi a Nuoro si sparse la voce che ogni lunedì, mercoledì e sabato un'ombra filtrasse attraverso la porta di Don Sebastiano e arrivata davanti alla porta di Don Gabriele sostava un poco e poi tristemente si ritirava. riprendo dopo molti mesi questo racconto che forse non avrei mai dovuto cominciare. Invecchio rapidamente e sento che mi preparo una triste fine, poiché non ho voluto accettare la prima condizione di una buona morte, che è l'oblio. Forse non erano Don Sebastiano, Donna Vincenza, Gonaria, Peduzza, Gigia, Baliodda, Dirri Pezza, tutti gli altri che mi hanno scongiurato di liberarli dalla loro vita. Sono io che li ho evocati per liberarmi dalla mia, senza misurare il rischio al quale mi esponevo di rendermi eterno. Oggi poi, di là dai vetri di questa stanza remota dove io mi sono rifugiato, nevica. Una neve leggera che si posa sulle vie e sugli alberi come il tempo sopra di noi. Fra breve sarà tutto uguale. Nel cimitero di Nuoro non si distinguerà il vecchio dal nuovo. Essi avranno un'effimera pace sotto il manto bianco. Sono stato una volta piccolo anch'io e il ricordo mi assale di quando seguivo il turbinare dei fiocchi col naso schiacciato contro la finestra. C'erano tutti allora nella stanza ravvivata dal caminetto ed eravamo felici poiché non ci conoscevamo. Per conoscersi bisogna svolgere la propria vita fino in fondo, fino al momento in cui si cala nella fossa, e anche allora bisogna che ci sia uno che ti raccolga, ti resusciti, ti racconti a te stesso e agli altri come in un giudizio finale. È quello che ho fatto io in questi anni, che vorrei non aver fatto e continuerò a fare, perché ormai non si tratta dell'altrui destino, ma del mio.